domanda non faccio più da fare. Che piace l'uomo che fa tante. Ma adesso mi dà il mio mondo. Guarda che puoi dare adesso, cosa fa, tanto non stai nel posto. quanto si mette l'anello con questa farina? 150 sempre. Ma vuoi che è entrato su moi 150, non si trova più proprio. Ma se mi sono io non potevo fare. O dai che arrivo, ho fatto 5 muoi. Ma te con il scenario o con le 150 euro? No, poi ho scenario 150 euro. Ma non le 150 euro, se vuoi non le faccio mai una la tradizione questa. Tu sei per 7 km, io lo so che pensi.